campagna, la usava quasi niente. Vabbè, la uso per, se la uso la maggior parte del corso più lungo. Messa da 2-3 volte alla settimana, capito? La macchina la lasci giù al cimitero, no? Lavoro, e allora soli, tanto scattando sono 7 km da casa al cimitero. Sempre tu ce l'hai il furgoncino, sì? Lo stai guidando tu? E si conferma, cazzo, non volevo fare nel tuo letto, una bella noia questa cosa. Perché? Ehi, vai, torna, disfa. Per carità, vieni. Dai su. Solo devo recuperarmi 2 ore, perché manco domani. Due l'ho già recuperata e ciao tantina, questa è la terza volta, mentre il mio collega alle 8, quando era l'autoparco ha avuto le rottate. Ah, domani non lavori allora? No, domani devo fare roba usico e devo tirarmi le balle. Ho capito. E poi come li recuperi, Daniel? Che mancano 2 ore, entrando mezz'ora prima. La mattina? Cappa. Quando c'è rottame, entro mezz'ora prima, si carica e si porta l'autoparco. Ma un cassone è pieno di quello bianco. Sì, e come fa a scaricarlo? Dove lo scarichi? Lo mettiamo dentro le buste vuote, quel tatramo è già pronto, capito? Ah, non è ribaltabile, no? Quello è ribaltabile. Però non abbiamo altri modi per portare a rottame, perché sono dei bracciati grossi e ci fanno mettere in questi sacchi qua di quel tatramo è pronto. Ecco, capito. E vabbè, comunque. Già va bene. Tanto pure tu sei agli sgoccioli. Perciò non me ne fanno fare mesi in più, no? Meno male, lui, guarda, sto contando i giorni. Questa volta, cazzo, avrò avuto il mio, Ma nessuno, però tu ti trovi a finire. C'è quella ragazza, mamma mia. Cosa ridare, guarda. Ho capito, perché? Con l'architetto. In auto di balle, no? Cioè, io, questo ha fatto solamente architettura università, geometri, ne ha fatto lo scientifico. Quindi le mancano tutte le basi da geometra e non sa niente. E vi rompo le balle, così è. E rompe le balle, soprattutto col cioccolato. Ma quando iniziano così, guarda, io ti ho messo qualcosa quando ho lavorato con come si chiama, con Mago Madiddu e cosa, ti chiama che devo asciuttino e poi ce l'ho avuto anch'io, Casanova. Mamma mia, ma era per un piccoglione che coso, ha detto, mamma mia, addosso mi stava, ma io muoviti, ma adesso scusi, mi fa lavorare, certo, cosa travagliare, come fai tu a starmi addosso così, dai, vai, sei dai, fatto un giro, cosa ti devo fare questo, ecco, vai, quando tu non lo trovi fatto, ma che tu mi stai addosso, cazzo, non mi facciamo andare manco in bagno. Un giorno mi è capitato che c'è un po' di fame, Daniele, lo sento anche male. Sono spostato un attimo come un panino che sono arrivato il gazzettone, ma girami le balle. Lascia perdere, per carità. No, con me non c'è molto male della tranquilla, la vita finita. Che lui era quello cicciottello e c'era quella macchina, cos'era, grigia o parafango blu? Non ho capito. C'è una macchina, cos'è, coreana, giapponese, la macchina ci aveva lui. Ma chi? Ma detto. La Hyundai. Bravo, quella Hyundai ci aveva, sì. Quella grigia, sì. Poi l'ho trovata a Casanova, l'anno scorso, ma non stava bene, diciamo, ha avuto un tumore. Che cavolo. No, anche questo che c'è giù adesso, di geometro, non ti credo che sia diverso da lui, Questo prende a marcia le cose, non ce ne vuole dare, c'è tutte sparse, un po' su, i vigili urbani, e qualche ciafruseria ce l'ha qua, c'è altre cose nuove, tutte ammacciate. Ti fanno lavorare male, ma me lo ci dicendo, ci sono stato prima di te, Daniele, lascia perdere. lascia perdere, va. Come si va a materiale è un casino. Ma poi il discorso era anche questo, che quando ti facevano aprire il marciapiede, no? Adesso 10 metri di marciapiede, ti faccio un esempio. Cazzo, voleva che glielo chiudevo in giornata, cioè lo stesso giorno, ma non ce la facevi, Daniele, perché lo devi smantellare, lo devi caricare tutta a mano nel coso, nel furgoncino, quello vecchio non ce l'avevamo però all'epoca. Se esiste ancora quel daily, boh. Comunque, ma ti fai, cioè, devi impastare tutta la mattina, fare il basamento, poi mettere i mattoni, non devi asciugare, vabbè, lo fai con massetto, quello sì, ma non fa, chiaro, come fai tu a aprire così tanto, poi chiuderlo, non ce la fai. E si conferma, già c'è ancora quel furgone, le prendendi, mi sa che c'è un'officina. Così, non è così, questo che vuoi fare, mezza via coso, dove sono io, e in poco tempo. Ma come fai? Ci vuole tempo, cavolo, tra smantellare, pulire e fare. Non è così semplice, no? Eppure, ammazzate il scalpello, no? Molto piccone, avete. Ce n'è uno per tutti i cantieri, segnaletica, noi e quanta gente c'è. Sono molto picco, non ci credo. E gruppi elettrogeni? Uno, da dividere. No, non ci credo, ma dove voglio andare? Ma comprate, no, quando andavo io ce n'era uno per noi. Uno per noi. E uno per l'altro, eravamo due squadre, e uno per l'altra squadra. E so come fa, una mola per noi, una mola per loro. Molto piccolo lo stesso, ma cazzo fa a lavorare se no? Ui, lascia perdere. Ma comunque nascondevano anche loro le cose, tipo guanti, se ci sono guanti te li devi comprare tu, oppure magari se una cazzuola, oppure magari se uno scalpello, non finire, ma ci avvirani, la marciavano i Eddi. C'è tutto, ti dico che c'è tutto. Che un paio di guanti, certo, questi guanti se vai al dico, ma costano 1 euro e sono identici, in giro di una settimana due sono già consumati e buttati lì, magari che un altro foto ti deve fare un foglio e devi dargli pure i guanti vecchi, ti ricordo una per me ci sono veramente da cambiare, dunque è una cosa impressionante. E tu sai, vai prima da bricco, ma te ne compri 2 o 3 paia, tanto, questo è 1 euro, e se la pigliano in culo. Va, per carità, gloria, non se ne può più, non se ne può più. Poi prendendo il cemento, un sacco al giorno di cemento, e se la metto perché ne consumate troppo. Un sacco al giorno di cemento. E vabbè, questo se facciamo ciottolato, piano piano. No, noi facevamo marcia a piedi, ci ho trovato mai, oppure scuole o asili, da sistemare, da imbiancare, capito? Sì, e vabbè, c'avevamo anche la bettoniera noi per impastare, quella elettrico. Lascia perdere Luca, c'è la bettoniera. Sono venuti, era fuori norma, sono venuti elettricisti, non è che non funzionava. L'hanno messa a posto, ha fatto 2 giri, non ferma la bettoniera, è sempre lì, se vuoi fare il concessore, qualcosa sta a mano. Ma non si lavora così però. Io ho lavorato male, sai dove? All'hotel dei Pini, che ero con Giovanni Bezzolibani. Lascia perdere Daniele, cioè, la schiena mi si è inciugata, però lì avevamo la bettoniera. Cazzo, ma non era quasi da solo, era un casino, come fai? Poi com'era posizionato la ghiaia con la sabbia? Veniva male, un casino qua. Lasciamo perdere. Poi per fare quel tracciato lì nella terra ci voleva uno scavatturino piccolino. E invece ho una terna, tutta a mano, se mi va la valesina a terra, ma picco e para. Lo so, ti capisco lui, cavolo, ci vuoi passare in 2, anche 3-4 sacchi di cemento fatto al calcetto, pensa tu quanto diventa, di tante sue prove, sei impazzo. E l'ho fatto lì. Se ne ce la mangia, se ne esci. No, una cosa allucinante. Tanto Daniele, se non ci vuoi tu ci va un altro. Dipende da chi è, anzi, questi che ci sono adesso sono anche troppo caldi. Secondo i petrovi, vedi quanti sono attaccati a muro, con dei sesci dentro. Ma quello con i baffi, adesso non mi ricordo come si chiama, che abitava al monte, che se sempre entra. Ma favoretti a Giancarlo. Non lo so come si chiama, abitava vicino a casa Daniele, dietro casa mia abitava. Antonello. No, quello con i baffi. C'è i baffi. Biondi. Ehi. Ce l'ho anche adesso, ce l'ho. Lo so, ho detto, entra sempre quello. Dove ti dica, ero piccoglioni quello, cavolo. Mamma mia. Ma è un attore troppo manovale. Piccoglioni a chi? A te? No, in generale, con l'architetto, con il geometra, con tutti, c'è sempre qualcosa, il suo occhio lo deve mettere per forza. Non lo so. Casino. Vabbè, io ho lavorato con muratori, un giorno mi ha detto che mi ha anche offeso, si è anche pentito di avermi offeso. Vabbè, se marcia a papà non penso che mi offenda, non penso brutto, forse magari prima. Cazzo, mi ha detto che ne posso mettere a rugare, mi si può qui, una cosa del genere. Cioè, come si permette di fare una cosa del genere. Comunque, io facevo quello che potevo fare e mi davo da fare, capito? Il lavoro più brutto è quello della piazza San Giuseppe, la chiesa, mamma mia. Ehi, tante cose ci sono da rivedere in quel posto, lascia perdere. Per carità, guarda, poi intanto io dico sempre, se non sono macchine non li pulimmo. Tanto vi farò fare anche via Rosello, se di nuovo sto messo male lo certo lato. C'è la pulizia, ma c'è da fare poco di cosa, che non vogliono credere, la pulizia, ma insomma è fare il basolato, che c'è da ripristinare lì all'angolo scendendo la via, ma la piazza, che cavolo si chiama lì, dove c'è il barbaccane. E non vogliono chiudere, vogliono fare perché l'assessore non vuole che si chiuda. C'è un altro pezzo di basolato lì all'ingresso di Capitea, in mezzo strada, però si sa come fare, boh? Vabbè, fa tu Daniel, è tanto genuino di due, ripeto, va un altro, è così. La fortuna, cioè se trovi il muratore che ci va d'accordo, sarà una bella squadra, la squadra è grande, cavolo. Com'è grande la squadra, Sì, vabbè, eravamo divisi, chi a scuola, chi all'asilo, chi in strada, a fare marciapiedi, le cordonate, capito? Come di cordonate, adesso sono un bel po' di anni che non è, dal 2012. Ma lo sai che io ho lavorato quasi con tutti, perché o siamo a parlare col manovale, oppure il manovale mi piaceva come stava lavorando con l'altro tramite muratore, ci mettiamo sempre a me. E come tutti hanno lavorato bene, sono tutti bene, la verità si dica. È un casino, Se uno collabora è normale. È così. Vabbè, dunque il lavoro più pesante lo facciamo noi. Sì, loro hanno la responsabilità, attenzione. Però il lavoro più pesante lo fa il manovale. Quello sì, lui. Veramente d'accordo. Ora, quel giorno di una fattura l'altro giorno, già gli ho risposto. Cavolo, metto la carriola e coso lì, contro i ferri. Mi giro per caricarmi la sabbia, va lui e me la porta via. E tomba là, faccia la carriola. Metto, giovane, questa è la mia carriola. Come va cosa? Sono parcheggiata lì. No, tu ti stai confondendo, stai ricordando male. Ha detto, prima non sono rincoglionito, tu sei troppo furtivo, l'ha giurito. A me parlo pure come Bisi. Strappa tra carriola. Eppure scemo, Ecco, vabbè. Adesso prendo questo, prendo un calatto, che cazzo mi metto il filo dentro, te li faccio vedere. Ma adesso mi mettono di barati. Quello che mi metto di la carriola. Comunque da noi intanto spariva uno scalpello, una cazzuola, una mazzetta. Gesù, perché pure 60 e passa anni mi questo uomo, non è neanche un ragazzino, io fatemi una vergogna. Se vuoi fare. Ma tutti in un furgone viaggiate? Quanti siete? Sì, tutti in un furgone, perché adesso io ero sempre con un altro operatore, con Tori. E il fatto sta che in fortuna sono il capo verde io. E lei aveva messo, l'architetto aveva messo a me, a lui, a fare lavori, come si dice, di quelli veloci, dai. Quindi c'era un rapporto da fare, marciapiede da sistemare, quattro mattoni, un mattone, non c'era da fare, veloce, tra trattando e te lo facevi. Capito. Vabbè, dai, sia gli sgoccioli. E poi, domani, la prossima settimana ricontrollo, vediamo un po'. Ma comunque dai un'occhiata pure tu, Daniele, così mi fai sapere. Ci provo a farla, se mi chiamani, se no ce la abbiamo in culo. Sì, Lu, controlla, perché se no c'è quel numero da chiamare per vedere un po' cosa dice. Ho chiamato e gli ho detto, ascolti, io dovrei fare una domanda. Quello, vabbè, cantieri comunali, no? Manovale edile, gli ha detto che mi dava, che non, quando facevo mi dava, che non c'era niente, ecco, infatti poi lui mi ha spiegato come fare, ha detto devi fare così, oppure quello, cantiere comunale o l'altro, nell'altra voce se non mi ricordo, oppure attivo o non attivo. Comunque attivo ce ne sono 1200 domande, non attivo 100 e passa, però sa se non c'è niente. Ma secondo me non so neanche loro, Luca, la cavolo stanno combinando, non li faccio ricca. Comunque, solo dalla base per uscire anche altre domande, ma pubblicare a breve, altri bandi. Sempre l'edilizia? Non lo so, Lu, se sono altri settori o che cosa, però devono fare altri bandi. Adesso vediamo, se ne parla verso maggio, come fece, per fine anno, vedrai, completo che li possiamo fare a dettagli di lei. Non lo so. Adesso vediamo, se escono le faccio, vabbè io me ne sono saltato qualcuno, magari sarei entrato anch'io. Sarei passato pure io, perché l'ultima domanda che avevo fatto era 65 o 66, adesso non mi ricordo. E poi tanti hanno rifiutato, bisogna mai rifiutare, no? Mai, anche se tu rifiuti poi succede che non ti chiamano più. Io da voi siamo venne, non so, è un lavoro pesante, comunque che si può fare, poi uno non ce la fa più, allora è costretto a non farlo più. Daniele, cosa ti dico, tanto tu mai travagli, anzi ma non lavori, è vero, però io mi gioco quasi a mio candy, sono le 10:20, tanto sicuramente mi sveglio stavolta alle 3, come sempre. Vabbè, l'hai fatto poi, c'è questo qua che fa la diretta su TikTok, un panificio, e fa vedere come fa il pane. Se ti guardi come fa il pane. Vabbè, sto lì, poi siamo a Biocco, vai verso le 5 a me, le 5, verso le 5 un'altra mezz'ora, perché poi alle 6 mi alzo a fare la puntura a mamma. Io stesso mi devo svegliare presto, devo fare il trasporto. Non so di Deusi, alle 8 devo essere già caricato, deve essere proprio in ortopedia, che c'è una visita, e poi risalito su. Ho capito, ma lì sei pagato o sei volontario? No, volontario qua. No, vado solo quando c'è da fare. Boh, basta. Invece volevo fare pure un po' di volontariato, boh. Allora, vidimmo su. Non so dove puntare. Vediamo un po' se cosa sardo o no. Allora, no, quale è già troppo impegnativo? Una cosa non impegnativa, non lo so, boh. Io volevo, sai che ho chiesto a Franco, non so, lo conosci, quello che lavorava a distributore in via, non so, il cognome, come si chiama. Comunque sono lì in via Milano dove c'è Bombolino, le ambulanze lì. Franco, lo conosci, sì? La croce blu, cosa che fratello, e c'è anche lui lì. Vabbè, comunque mi ha detto, lui quando vuoi, vieni, ti inseriamo lì nel, insomma, insieme a loro. Cavaliava, non vedo un po' tullo. Però sempre, vabbè, lì è volontariato, comunque, quando posso, non è che quando sono, anch'io mi impegni, però un po' lo vorrei fare. Cavaliava, bene, bene, è già una cosa bella, non è conosciuta gente, che serve sempre. Sì, ma infatti fai conoscenza, è vero, gente nuova, lo so, aiutare il prossimo, perché poi un domani aiuteranno a noi, eh. Vabbè, è una cattea. E vabbè, Lugare, dai, era approfitto che fino alle trasmissioni per oggi, che domani, per vedere il prezzo, è già tardi. Veglia, dai, anche ti stavo salutando, dai, ci sentiamo alla prossima, dai, saluti a tutti, buonanotte, ciao. Veglia, lo vedi, contraccambiamo al centro, dai. A domani, se coincide, buon tutto, dai, saluta in casa, ciao, buonanotte. Veglia, grazie, ciao, Dani.